Fare tutta la... Resto per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, diretta del sabato sera con un altro sposo, ce l'abbiamo, come ti chiami? Giuseppe! Giuseppe, da dove vieni? Vai, con l'applauso! Provincia di Monza! Ciao a tutti! Allora, dico che un forse sì, probabilmente sì. Non sei ancora sicuro, non è ancora sicuro. È un forse. È ancora il forse, forse, ragazzi. C'è sempre forse di me. C'è sempre forse. C'è sempre forse, perché non si sa mai. Non si sa mai nella vita. Quando è il giorno giusto? Tra 20 giorni. Tra 20 giorni, quindi c'ha 20 giorni per cambiare idea, ragazzi. Ecco. Vabbè. Abbiamo qua due ragazze. No, due che... ho già pagato. Cos'hai pagato? Ma ho già pagato gli anticipi, quindi un cazzo di cambiare idea. Si sposa non per amore, ma perché ha già pagato l'anticipo. Bravo Giuseppe, bravo. E viva l'onestà! È onestissimo. Tra l'altro, dicevo, abbiamo qua due ragazze che cioè dovete riuscire a farli cambiare idea, ragazzi. Ma io puntavo all'amica, ma l'amica. Ma puntavi l'amica? Qual è l'amica? È quella lì. Ceci, che amica hai? È quella lì, così alla radio si capisce. No? Il nome è già troppo. Il nome è già troppo? È già troppo. È innominabile? Ma Ceci, come si chiama? Chi è? Tu lo sai? Si chiama Domenica. Ah, la Francesca. Allora, aspetta. Permettiamo che la sposa. Che? Cioè. Cos'è? Non vuole festeggiare. Come la sposa non vuole festeggiare? Sembra che non voglia festeggiare. Ma chi è la sposa che non vuole festeggiare? Non so, cioè, l'amica. Non lo so. L'amica di chi è? Vediamo. Vediamo. Confermi, tu come ti chiami? Non c'è una sposa. Eleonora? La tua sposa non vuole festeggiare. Non c'è. Non si capisce quello che stai dicendo. Giuseppe e Maria, perfetto, tantissimo. Gli amici qua presenti. Il coma più tardi. Presentatevi, ragazzi, presentatevi anche voi. Allora, io sono Calogero e sono il suo fratello gemello. Calogero, fratello gemello. Testimone, bro! Testimone! Ah, Calogero, sì, ti ricordi che si somigliano? Siamo già famosi e neanche lo sapevo. Io te l'ho presentato, ma tu non hai voluto approfondire la conoscenza, quindi. Scusa. Dai nomi. Mi sarebbe servita una spalla. Tra l'altro, Calogero è un nome tipico di Monza, giusto? Sì, esatto. Tutti a Monza si chiamano Brianzolo al 100%. Nati, cresciuti, Doc. Brianzola, alta Brianzola. Proprio Doc. Poi cosa abbiamo? Pietro, testimone dello sposo. Sei testimone Brianzolo, te? Sì, Brianzolissimo. Super Brianzolo, fammi il super Brianzolo. Ecco, super Brianzolo. Cos'è quello? Solo transilvanico. Transilvanico, tra l'altro. Sì, perché su che sangue? Sì. Escono i canini? Diciamo che le origini sono transilvaniche. Attento che ho Cecilia che è vergine, stai rischiando tantissimo. Dubito fortemente. Cosa dubiti? Della Cecilia o della verginità? No, del mio. Del tuo amico. La transilvanità del mio amico. Ah, della transilvanità del tuo amico, non della verginità della Cecilia. Assolutamente, non sia mai. Ecco. Mentre dell'altra ragazza. Sempre gentiluomini. Di Eleonora invece? Eleonora. Ma ve la siete portati dalla Brianza l'Eleonora? No. L'avete rapita qui nel locale? Volevamo. Ve la portate in Brianza? Però, volendo possiamo portarla. Volendo, se lei vuole. Diciamo che è un po' ostica. È un po' ostica. E quindi. È un po' ostica? È un po' ostica. Vuoi tu, Eleonora, andare in Brianza? È un po' ostica. Vabbè, lo vuole. Noi abbiamo un appartamento del bello, Cinzano, molto bello, fighissimo. Molto spazioso. Fighissimo. Bellissimo. Fino a domani sera siamo qua. I letti sono per 4, non per 2. Volendo, vengo io da voi se avete più spazio. Perché, cioè, qui siamo solo maschi. No, ma Eleonora, da dire. L'ospitalità dei Brianzoli è famosissima in tutto il mondo. Come quella dei siciliani, praticamente. Più dei siciliani. Sei stampata contro il vetro. Cosa hai fatto? Francesca, chiamiamola. Chiamate anche Francesca a sto punto. Che sì, ci vuole anche un po' di Franci. Ci sente, tra l'altro, siamo sonorizzati, però. Anche quella tua amica lì che è un po'. Io sto pensando agli amici da casa che dicono cosa sta succedendo lì. Ci stiamo. Ceci, esce lui. Non esce è come lui. Prima. Esce Calogero, lui. Entra? Chi è che è stato nominato? No, sostituzione. Esce Calogero, entra? Entra la Franci. Ecco. È arrivata la Franci. La Franci decisamente sta migliorando la faccenda. Franci ci sta. Però ci sta la Franci, ci dicono. Quote rosa in aumento. Quote rosa in aumento, Franci. Ci sta sempre. Però Calogero è ancora ricomparso, cioè non sempre, cioè, quando c'è la Francia, che doveva fare? Che doveva fare? Questo è vostro, questa roba che salta? Questo è nostro, ma. Ma si azzona ogni mezz'ora? Allora, io direi sì, ma dico purtroppo sì. Cioè, attenzione, questo no, questo no. Ceci, lo vuoi? Facciamo entrare. Ceci è tornata la banana, ma lui chi rappresenta? È tornata la banana che si era sbucciata. Quello bello, quello bello. Ecco, se volete chiamarlo, non... Io, mister Banana, gli ho proposto un nuovo business. Che business? Fare le finestre a forma di banana che si sbucciano. Le finestre? Madonna, sei... È perché lui fa. Aiuta, fa questo di lavoro. Ah, fa le finestre, ma mi raccomando, attenzione che c'è Giuseppe che fa la pugione, ecco. Ricordiamo che lei è vergine ancora. Ecco, sono partiti selfie, tanto qua si stanno facendo tutti gli affari loro. Beh, perfetto. E da quando è arrivata la Franci si è creato lo scompiglio, eh? Ma io te l'avevo detto, la Franci cambierà la situazione. Franci crea scompiglio, lo sai? Eh sì, qua si sono azionati tutto. Sì, no. Stai attento al transilvanico, eh? Sì, occhio, eh. È Franci? No. Stai attento al transilvanico. No, questo non. Lui su che ha sangue alle vergini, eh? Allora ha sbagliato. Sì, sì. Ha sbagliato, ecco, ha sbagliato. Non se ne trovano più, una cosa. Sì, ha sbagliato posto. Calogero. Sì, sì. Lo sapete che Calogero è tipico brianzolo? Sì. Non è niente terronacchia. Sì. No, no, no, è brianzolo toc. Ci mancherebbe. Brianzolo toc. Mi sono spostato al sud, a Monza. L'altro è lui. Intanto continua la saga della pogione di Giuseppe. Ceci, com'è la situazione lì? Drastica. È drastica. Stavi meglio vicino. Attenzione, è partita anche la lambada. Lui è stato maestro di lambada anche. È Giuseppe. Non vedete che sta. Mi sta lambadando. Mi sta, ecco, si vede che è maestro di lambada. Ecco. Sì, sì, Bambino è un fenomeno. Incredibile. Cecilia sta perdendo la sua verginità. E questa volta il transilvanico rimane proprio a secco. Se c'era una speranza di trovare. No, noi non lo facciamo entrare. Intanto salutiamo il cuculo. Il cuculo. Come si chiama il cuculo? Ciao zio Fra. Allora zio Fra, il cuculo. Zio Fra è fondamentale. Lui è lo zio Fra. Ogni mezz'ora fa questo balletto, anche di giorno, eh? Quindi secondo me ha perso occhiali, parrucca e tutto è necessario per. Questa è la diretta radio più confusa che abbiamo mai fatto, però visto bello, l'orario ci può stare. Però è bello. Intanto anche Cecilia si sta confondendo perché. Sì, sì. Che cosa fare? Le mie amiche sono di là a fare le senza di me. Sta perdendo certezza, sì, Cecilia. È arrivato il cuculo, un applauso al cuculo. Guarda, sì, te lo confermo. Guarda, la Bea. Ciao Bea, che i volanti, guarda dove mi avete messo. Mi comunico dalla regia. Lei la sposa. Sì. Ragazzi, io proporrei un gran finale in area karaoke tutti insieme a lei. Perché lei la sposa che ride, quella. Si è dolce, poi è abbandonata. La Martin seduce. Sì, no. Lei mi seduce. Ma lei canta con la birra in mano. Cioè, lei è semplice. La Martin è fantastica. Sì, la Martin è una persona veramente, io adoro. Sì, no, ma se volete andare a avere uno spritz ad Asiago, vi porta lei. Tutto ciò che si muove, ricordiamo. Alla guida turistica. Guarda che l'ho convinta. Respira, scusa. Mi corregge la picci. È cattiverio. Guarda che l'ho convinta. Eccoci, viene anche lei. No, c'ha la birra, è meglio che. No, lasciata. Lasciamo. Diciamo che ce lo tatueremo. Dai, dove allora, ragazzi, siamo quasi in chiusura. Andiamo a cantare, va bene? Andiamo. Che. Ecco, è arrivata. Un applauso alla Franci, alla Martin. Vai Martin, è entrata, è già uscita, ecco. Abbiamo finito Martin. Perché ormai l'è tenuta qua due ore e mezza. Diciamo che Giuseppe ha finito i proiettili, ha fatto la lambada dietro se a Cecilia. Posso cantare in francese? Se vuoi posso cantare in francese. Vuoi cantare in francese adesso? Anche Calogero, tu canti in francese? Allora, guarda, noi abbiamo bevuto Francia fino a. Però bevendo Francia potrei provare. Facciamo vule. La Borgogna. Dai, una canzoncina finale, dai. Imbarazzanti, bisogna cantare in francese. Un attimo che il conte Dracula se ne sta andando, No. Ok. Cantiamo? Cantiamo? Stai con noi. Cosa cantiamo, Eleonora? Non lo so, in Franci? In francese vuole cantare? Franci canterei Faccela vedere, faccela. Guarda, no. Ma non è francese. Faccela vedere. Cioè, ha detto una cosa la Francia. Ha detto una cosa. A me piace. Va bene, finiamo con oi lele, oi lalla. Franci, non intervieni? Francesca, hai dedicato a me? Sì. Perché io. La puoi fare con la R, Mucci. Ti lascio lo spazio. Che tra l'altro c'è anche una R in oi lele, oi lalla. Faccela vedere, faccela tocca, però la faccio. Sembra adatta alla sua. Mi avvisano dalla regia. Sta quasi partendo la Cici, il transfer che ci dovrebbe portare in albergo se vogliono venire con noi. Ragazzi, abbiamo un sacco di birre. Però quest'ora è imbarazzante. Sei sotto la sua ascella protettiva? Ma la ascella è molto protettiva. Doveva rifare i colpi di sole, basta farli sotto la ascella di Giuseppe, ti vengono dei colpi di sole fantastici. Va bene, se volete fare anche voi dei ritocchi ai capelli, mettetevi tutte sotto gli ascelli. Si spende anche la luce, tra l'altro. Ah, che è la atmosfera soft. Cavolo, va bene, ragazzi. Cazzo, io ho detto, cazzo, si è fatta. Invece, si è accesa la luce. Facciamo i saluti. Brava, prendi in mano. Non si mangia, si parla. Vuoi mangiarti il microfono? Abbiamo le camere spaziose. Saluto tutte le persone che mi conoscono. Io sono sul pezzo. Cioè, ecco, e anche quelle che anch'io conosco, è stato un piacere conoscerla. Vedo che Giuseppe che sta provando un gran piacere, ecco. C'è anche una piazza. Ragazzi, ci salutiamo? Ciao, ciao da Canogero, ciao dalla Bonda Brianza, ciao, fantastici, eh.